Vademecum legale contro gli abusi in divisa. Capitolo 1.3. Trattamento sanitario obbligatorio. Di Valentina Muglia. Il diritto alla salute è garantito come diritto fondamentale. Chiunque ha diritto a ricevere le cure necessarie ed adeguate tramite il Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e gratuito, a prescindere da cittadinanza, condizioni economiche o sociali. Gli accertamenti e trattamenti sanitari sono solitamente volontari, cioè si basano sul consenso o volontà espresso validamente dal paziente, che deve essere informato dal medico sullo scopo e sulla natura dell'eventuale intervento terapeutico necessario, delle conseguenze e dei rischi del trattamento. Il consenso nel diritto alla salute è quindi un elemento che accompagna ciascun individuo durante tutto il percorso terapeutico, dalla libertà di scegliere se, come e quando curarsi, sino all'eventuale revoca del consenso. Il paziente è libero di scegliere di non curarsi o di smettere di curarsi. Nessuno quindi può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario contro la sua volontà, se non quando questa possibilità sia prevista espressamente dalla legge. È proprio il caso del trattamento sanitario obbligatorio, da ora in poi TSO, che consente nell'imporre ad un soggetto un ricovero ospedaliero, appunto contro la sua volontà, quando ne ricorrono i presupposti indicati dalla legge. Si tratta chiaramente di un'ipotesi estrema che pone al centro della riflessione il diritto alla salute del singolo, soprattutto alla salute mentale e la questione della salute collettiva. Se infatti la libertà personale è inviolabile e va tutelata come tale, nell'ipotesi di TSO la libertà personale viene evidentemente compressa dai poteri dell'agire pubblico. Per questo è importante conoscerne bene i limiti al fine di evitare abusi e conoscere tutti i diritti di chi vi è sottoposto. La legge sottolinea la necessità di rispettare la dignità di chi viene sottoposto a questo trattamento. Anche chi subisce una cura ha diritto per quanto possibile alla libera scelta del medico e del luogo dove essere curato. Ha diritto a comunicare con chi vuole, specie con i familiari e volendo anche con un avvocato, per tutta la durata del trattamento. Ha diritto a ricorrere in tribunale per opporsi al provvedimento di disposizione del ricovero forzato. Ha diritto, insomma, ad essere trattato come persona umana e a non vedere lesa né la propria dignità né compromessi i propri diritti civili e politici di cui rimane pienamente titolare. A chi può essere disposto il TSO? Il trattamento sanitario obbligatorio può essere disposto nei casi previsti dalla legge, in particolare la legge numero 180 del 1978, nota anche come legge Basaglia, e la legge numero 833 del 1978, disciplinano i trattamenti disposti per malattia mentale. Per malattia mentale si intende la presenza di un'alterazione psichica tale da richiedere e giustificare urgenti interventi terapeutici. Nella pratica questo trattamento viene spesso disposto nei confronti di persone che presentano disturbi psichici, tossicodipendenti in crisi di astinenza, alcoldipendenti, ad esempio in caso di rifiuto della terapia medica farmacologica, di rifiuto di cibo e acqua, oppure nel momento in cui vengono assunti comportamenti imprevedibili o violenti, esempio minaccia di ferirsi o di uccidersi. In quali casi si interviene con il TSO? La proposta di trattamento sanitario obbligatorio può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. La legge prevede tre condizioni come presupposto per intervenire con un TSO, ed è necessario che sussistano tutte e tre contemporaneamente. 1. La necessità della cura. La persona si trova in una situazione di alterazione tale da necessitare urgenti interventi terapeutici. 2. Il rifiuto della cura. Gli interventi proposti vengono espressamente rifiutati. 3. L'impossibilità di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere, cioè di non procedere al ricovero. Queste tre condizioni devono essere accertate e certificate da un medico che deve tentare concretamente di coinvolgere il paziente a sottoporsi alle cure in modo volontario e ad informarlo delle eventuali conseguenze del trattamento sanitario obbligatorio. Secondo la legge, infatti, gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. La ricerca del consenso in una situazione critica potrebbe sembrare apparentemente un paradosso. È invece uno degli elementi più importanti perché consente di evitare di eseguire il trattamento forzato ogni qualvolta si presenti una situazione critica. È bene ricordare infatti che si tratta pur sempre di un provvedimento che comporta una forte compressione dei diritti individuali e che limita la libertà personale di chi vi è sottoposto. In che consiste il TSO? Il trattamento sanitario obbligatorio su proposta motivata di un medico può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengono accettati dal paziente e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il paziente sottoposto a TSO subisce un ricovero ospedaliero nel reparto psichiatrico di diagnosi e cura della struttura più vicina per essere sottoposto alle cure necessarie anche farmacologiche. Solitamente la durata del trattamento è di 7 giorni, ma può terminare prima non appena cessano le condizioni che lo hanno legittimato, così come può essere prorogato oltre il 7° giorno nel caso sia necessario. Chi procede al TSO? La legge, per seguire un TSO, coinvolge più soggetti, assegnando loro compiti e doveri diversi. I medici incaricati di valutare la situazione concreta e lo stato di salute del paziente da loro visitato, il sindaco in qualità di autorità sanitaria locale, il giudice tutelare in quanto autorità giudiziaria necessaria per la convalida del trattamento, dal momento che il TSO è pur sempre un provvedimento limitativo della libertà personale, sebbene temporaneo ed eccezionale. Procedimento. Il sindaco del comune in cui il paziente ha la residenza è il soggetto che dispone il provvedimento amministrativo di TSO, nella forma dell'ordinanza sindacale su proposta di ricovero motivata dal medico e convalidata da un medico della struttura sanitaria pubblica. Questo provvedimento deve essere notificato entro 48 ore dal ricovero al giudice tutelare. Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida, il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera. Se questo non avviene o non avviene nei tempi stabiliti dalla legge, l'ordinanza del sindaco decade automaticamente. Il giudice tutelare può inoltre adottare i provvedimenti urgenti che possono servire per conservare e amministrare il patrimonio di chi è temporaneamente sottoposto al provvedimento di TSO. È necessario inoltre che l'ordinanza del sindaco sia notificata al soggetto sottoposto al trattamento forzato, in quanto si tratta di un provvedimento dal quale conseguono limiti alla libertà personale di chi vi è sottoposto. La mancata notifica, così come la mancata motivazione, rendono illegittimo questo provvedimento e possono essere motivo di ricorso. Inoltre, chiunque, anche chi è sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio o un familiare o un amico, può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il TSO. Sulle richieste di revoca o di modifica decide il sindaco stesso entro 10 giorni, emanando in caso di accoglimento un provvedimento di modifica o revoca del trattamento. Il trattamento obbligatorio può essere disposto anche nei confronti di stranieri e apolidi. In questi casi ne viene data comunicazione anche al Ministero dell'Interno e al consolato competente tramite il prefetto locale. Intervento delle forze dell'ordine. Nella prassi il ricovero è spesso richiesto dai familiari o conoscenti che in situazioni particolarmente critiche di emergenza richiedono l'intervento medico telefonando al 118 o al 112 e alle forze dell'ordine. L'intervento di queste ultime si rende spesso necessario dalla situazione concreta, venendo in rilievo questioni di sicurezza pubblica. Molti interventi avvengono infatti in presenza di comportamenti antisociali, le cui manifestazioni sono spesso la minaccia di suicidio o la minaccia di lesione a cose e persone. Sebbene la legge preveda il trattamento sanitario obbligatorio con una finalità puramente terapeutica, focalizzando l'intervento non sul concetto di pericolosità sociale ma di tutela della salute e della sicurezza del paziente in situazioni di gravi alterazioni mentali, molto spesso ad essere sottoposti a ricovero forzato sono proprio personaggi già noti all'autorità in situazioni in cui vengono in rilievo anche questioni di sicurezza pubblica. In questi casi il ricovero forzato può essere eseguito anche con l'utilizzo della forza fisica. In presenza di una situazione di stato di necessità, ad esempio nelle ipotesi di comportamenti violenti in atto o comunque di un pericolo concreto. È molto importante, per evitare abusi, che la forza fisica venga utilizzata solo nei casi strettamente necessari per garantire l'incolumità pubblica e che sia in rapporto di strumentalità e di breve durata, ad esempio bloccare fisicamente il paziente agitato per metterlo sulla barella dell'autoambulanza. Trattamenti e diritti del paziente. Una volta eseguito il ricovero ospedaliero, il paziente deve essere sottoposto ai trattamenti strettamente necessari per ristabilire la sua salute, anche mediante l'utilizzo di terapie farmacologiche. La legge gli riconosce il diritto, per quanto possibile, alla libera scelta del medico e del luogo dove essere curato, nonché di avere informazioni riguardo al suo stato di salute e sulle terapie che gli vengono somministrate, nonché il diritto, al termine del ricovero, ad essere dimesso senza ulteriori formalità. Chi è sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio conserva tutti i suoi diritti civili e politici per tutta la durata del trattamento. Può infatti chiedere la revoca o la modifica del provvedimento al sindaco, può agire in giudizio contro il decreto di convalida del giudice tutelare, ha diritto a comunicare con chi ritiene opportuno, specialmente con i propri familiari e legali, questo forse è proprio uno dei diritti più negati in presenza di ricovero forzato. Enorme è il costo emotivo per chi vi è sottoposto e per chi gli sta intorno, anche a causa dello stigma sociale sulla salute mentale che chi ha subito questo trattamento si ritrova spesso a sopportare. Tuttavia il TSO non viene riportato in nessun documento, né nel casellario giudiziale, e non comporta di per sé la revoca della patente o di altri documenti. La legge impone il rispetto dell'integrità fisica e psichica del paziente per tutta la durata del trattamento coatto. Per questo è importante sapere che le pratiche di contenzione fisica sono spesso illegittime. Per contenzione fisica si intende la predisposizione di presidi applicati sulla persona o di mezzi come le barriere ambientali che riducono e controllano i movimenti, ad esempio l'essere legati al letto mediante polsiere e cavigliere. La contenzione fisica deve essere limitata solo ad interventi straordinari, per esempio in situazioni eccezionali e per il tempo strettamente necessario alla somministrazione della terapia. Infatti è esclusa la possibilità di utilizzare coercizione fisica nei trattamenti sanitari per natura punitiva o meramente preventiva, anche a causa del rischio di lesioni o peggio di decesso che ne può seguire. La storia di Francesco Mastro Giovanni, morto dopo 87 ore di contenzione fisica nel reparto psichiatrico di un ospedale, legato con le cinghie a letto e privato della possibilità di nutrirsi, bere e vedere i propri familiari, mostra tutti i rischi di questa pratica illegittima. Proroga del TSO. L'eventuale proroga del ricovero ospedaliero necessita di tutte le garanzie previste dalla legge per la disposizione del TSO nella prima fase, essendo pur sempre un provvedimento limitativo della libertà personale. Questa può avvenire infatti solo su proposta motivata di un medico al sindaco, solitamente si tratta dello psichiatra di reparto. La proposta deve essere anch'essa motivata, deve indicare cioè la persistenza dei requisiti richiesti dalla legge per il TSO e la durata presumibile dell'ulteriore ricovero richiesto. Ricevuta la proposta, il sindaco ne deve dare comunicazione al giudice tutelare per ottenere o meno la convalida, con le stesse modalità e tempi previsti dalla stessa legge per eseguire il TSO. Cessazione del TSO. Lo stesso medico è tenuto inoltre a comunicare prontamente al sindaco le dimissioni del paziente, al verificarsi della cessazione delle condizioni che avevano legittimato il TSO, oppure l'eventuale impossibilità sopravvenuta di proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare. L'eventuale omissione di queste importanti comunicazioni comportano la cessazione di ogni effetto del provvedimento di TSO disposto in precedenza, il quale non potrebbe più essere prolungato se non illegittimamente, e può comportare la commissione del reato di omissione d'atti d'ufficio, sempre che non sussistano gli estremi di un delitto più grave. Cessate le condizioni previste dalla legge per il TSO, il paziente è libero di firmare le proprie dimissioni e di uscire dalla struttura ospedaliera senza ulteriori formalità. Ricorso contro il provvedimento del TSO. Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e chiunque vi abbia interesse, ad esempio un familiare, può proporre ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare. Procedimento ex articolo 739 CPC. Il sindaco può proporre ricorso nel caso inverso, quello cioè della mancata convalida da parte del giudice tutelare del provvedimento di TSO, entro il termine di 30 giorni. Procedimento. Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto notificato alle parti e al pubblico ministero. Il presidente del tribunale ha acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può decidere di sospendere immediatamente il trattamento anche prima dell'udienza di comparizione delle parti. Sulla richiesta di sospensiva, il presidente del tribunale provvede entro 10 giorni. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo aver assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti. Le parti possono stare in giudizio anche senza un difensore, spesso sconsigliato, e non ha costi in quanto è esente dal contributo unificato. TSO è legittimo e risarcimento del danno. Nel caso in cui un trattamento sanitario obbligatorio sia illegittimo, il paziente può richiedere il risarcimento del danno patrimoniale causato dal TSO. Sebbene ad oggi non sia prevista una vera e propria indennità per illegittima detenzione finalizzata al ristoro di chi ha subito un TSO ingiusto, sarà sempre possibile richiedere il risarcimento del danno patito. Il risarcimento del danno è una via che segue le regole del diritto civile. Senza addentrarci su questo tema in modo eccessivamente ampio, ogni azione che comporti un danno ingiusto per chi la subisce merita di essere valutata al fine di risarcire chi ha subito il danno di un corrispettivo economico. Ciò che è fondamentale segnalare è che tale danno deve essere sempre provato: relazioni mediche, chance perdute a causa della limitazione della libertà, danno morale legato alla lontananza di affetti familiari e dovuto al cambiamento delle proprie abitudini sociali, familiari, eccetera. Per questo motivo, anche nel processo penale, è sempre possibile chiedere la liquidazione di un danno civile, anche se in sede penale. Questa regola ovviamente vale per tutti i casi di limitazione ingiusta della propria libertà, compreso in questo caso l'ingiusto TSO.